questi figli per non stare davanti a noi e vivere in una terra migliore di come l'abbiamo trovata noi. Grazie. Vai con la musica. Benvenuti dagli studi di Radio Ciroma, 105.7 ciroma.org per lo streaming. Noi come siamo gli Scarafaggi, veniamo dalla manifestazione, come abbiamo sentito dall'intro di questa puntata, i suoni, le parole, le emozioni di una bellissima giornata in Presila, una manifestazione partecipata, colorata, piena di bambini, simbolo del futuro di questa terra. E dei loro genitori, insomma, che vogliono crescere questi bambini proprio in questo territorio che, come diciamo e ripetiamo da mesi, da anni, è stato bistrattato e maltrattato, insomma, dalla politica e dagli affari criminali che hanno voluto questo scempio ambientale. Quindi una manifestazione bella, partecipata e molto molto significativa, un messaggio chiaro, insomma, alla regione. Intanto salutiamo Andrea da dietro il vetro. Italo, un messaggio chiaro da questa manifestazione alla regione? La regione ha già avuto modo di tastare il nostro sentire lunedì scorso quando abbiamo fatto l'incontro. Dopo ne parleremo, infatti ci sono delle piccole chicche, insomma, sull'incontro che Tu hai partecipato personalmente, purtroppo eri presente. Insieme agli altri, insomma, delegati del CAP e dei sindaci, c'erano, cioè, dei consiglieri regionali e i vari dirigenti, la Corte dei Miracoli, sì, perché un campionario di dirigenza regionale da far venire i brividi. Quindi diciamo che la manifestazione è semplicemente rimarcato quello che un territorio intero chiede, ovvero la chiusura di una discarica illegale, il ritiro dell'aria, perché è l'unico modo con cui si può chiudere definitivamente questa discarica, altrimenti si rischia di provocare un danno incontrollabile, in quanto i privati fanno un po' quello che vogliono, i controlli sono abbastanza limitati, quindi l'unico modo per mettere la parola fine a questa diciamo avventura è ritirare l'aria. Perfetto, quindi racconteremo insomma quello che è successo in regione, quello che come è andata la manifestazione, gli interventi che ci sono stati, insomma le verità che sono venute fuori insomma da questa bellissima giornata presirana, una giornata che non è solo di protesta come sempre, ma è soprattutto di proposta, perché noi proponiamo delle cose precise da tempo sulla gestione dei rifiuti, un territorio intero che fa la differenziata in maniera con percentuali molto più alte rispetto al resto della regione, merita comunque di avere un'opportunità diversa di gestione dei rifiuti, e quindi racconteremo come sono andate le cose. Poi che cosa aggiungere più? Vabbè, racconteremo di quello che faremo nei prossimi giorni, ecco, di quello esatto. Che abbiamo fatto ieri sera e stamattina. Sì, di quello che abbiamo fatto ieri sera e stamattina. Ieri sera un'assemblea molto partecipata. Molto lunga. Vabbè. E soprattutto è stata un'assemblea che è ordinatissima. Ordinatissima. È stata una delle assemblee più partecipate degli ultimi mesi. C'è stato un capo a dirigere. Sì, c'è stato un capo a dirigere. Un grande capo. Andiamo con la rubrica, Andrea, che dici? Poi subito passiamo con la musica, già fa segni dal vetro. Allora, vediamo, oggi è 26 ottobre, vero? 26 ottobre, qua si sta cancellando l'ira di Dio. Allora, vediamo un pochino che cosa è successo. Nel 1860 i Mille di Garibaldi incontrano l'esercito dei Savoia dopo aver conquistato il regno delle Due Sicilie, quindi giorno funesto per noi del sud, questo 26 ottobre, i Mille di Garibaldi, a parte il fatto che non erano mille, erano pagati dall'Inghilterra, vabbè, tutto il resto è storia. Andiamo avanti, nel 1905 la Norvegia diventa indipendente dalla Svezia, quindi auguri all'indipendenza norvegese. Nel 1913 in Italia si svolgono le elezioni politiche generali per la 24esima legislatura. Nel 40 a Roma viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense, progettata dall'architetto Narducci. Addirittura la stazione nasce da una struttura precedente che lo stesso Narducci aveva progettato nel 1938 per la visita di Adolf Hitler. Quindi una bella cagata, insomma. Ok, vediamo che cosa c'è più. Nel 55 Ngo Dinh Diem si autoproclama primo ministro del Vietnam del Sud, adesso lo faccio pure io, mi autoproclamo primo ministro della Presila del Nord. Ok, andiamo avanti. 1984 a Babyface viene trapiantato il cuore di un babbuino, ve lo ricordate questo? Il primo trapianto con il cuore di un babbuino, sì, 1984. Nel 95 conflitto israelo-palestinese, agenti del Mossad assassinano il leader della jihad islamica Fatih Sikaki in un hotel di Malta, quindi una guerra che va avanti, no? Come sappiamo da millenni, forse, perché insomma la questione israeliana in Palestina diciamo che è qualcosa che affonda le proprie radici proprio nella Bibbia. Vediamo qua, 2002, fini della crisi del teatro Dubrovka di Mosca, circa 50 ribelli ceceni e 150 ostaggi muoiono quando i commando russi irrompono nel teatro della Casa della Cultura di Mosca, che era stato occupato dai ribelli tre giorni prima. Ricordiamo l'utilizzo del gas asfissiante, insomma, che ha praticamente ucciso tutti, ostaggi e ribelli. Ricordiamo un tabula rasa, sì, tabula rasa, vabbè, non risolto il problema alla fonte, diciamo così. Vabbè, i russi sono fatti così, quindi niente, prendere o lasciare. Vediamo anche in Siria che stanno bombardando a tappeto la Siria in una maniera veramente in vereconda. Va bene così, vediamo che cosa. 2010, a poche ore dallo tsunami, l'eruzione del vulcano Merapi sull'isola di Giava, una delle tantissime eruzioni di questi ultimi decenni che testimoniano un'attività vulcanica molto forte in tutto il pianeta. La rubrica di oggi è conclusa. Andrea, andiamo con il primo pezzo musicale e poi rientriamo con le notizie dalla discarica di Celico. Noi siamo gli Scalafaggi, 105.7 ciroma.org per lo streaming. paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale, man. Sinistro, destro, uguale, man. Devi essere legale per servire un criminale, man. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, un cervello, ragiono e cerco, cerco, cerco, ma c'è troppo poco buono qui. Rosso, come il sangue di Giorgiana Masi. Bianco, come la coca dentro i vostri nasi. Verde, come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega. Rosso, come il sangue di Carlo Giuliani. Bianco, come la chiesa e le sue lunghe mani. Verde, come le della Lega. Il mio paese se ne frega. Ascolta, se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merde. Tanto finché non c'esce un morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, noi non siamo in questo stato ombre, siamo nuovi re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo a quest'Italia. Rosso, come il sangue di Giorgiana Masi. Bianco, come la coca dentro i vostri nasi. Verde, come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega. Rosso, come il sangue di Carlo Giuliani. Bianco, come la chiesa e le sue lunghe mani. Verde, come le della Lega. Il mio paese se ne frega. Guerre tra i poveri, si divertono a dividerci, a vederci sempre più in mezzo alla merda e poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le puttane sulla strada, la gente senza casa, i miei senza un futuro, ho gli occhi bene aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò rifiuto il vostro tricolore. Rosso, come il sangue di Giorgiana Masi. Bianco, come la coca dentro i vostri nasi. Verde, come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega. Rosso, come il sangue di Carlo Giuliani. Bianco, come la chiesa e le sue lunghe mani. Verde, come le della Lega. Il mio paese se ne frega. Bentornati in studio, 105.7 cinoma.org per lo streaming. Noi siamo gli Scarafaggi, Andrea ride. Abbiamo i soliti problemi di comunicazione. Sì, sì, abbiamo i soliti problemi di crisi epilettiche che ci vengono quando arriviamo in procinto di entrare in diretta. Allora, ricapitoliamo insomma la situazione. Ci eravamo lasciati nella precedente puntata, insomma, con questo incontro ufficiale avvenuto in regione. Ci hanno convocato a seguito insomma della raccolta firme che abbiamo fatto a tappeto in Presila. Per poco più di 10 giorni abbiamo raccolto qualcosa come 8.500 firme che insomma chiedevano chiaramente al presidente Oliverio, alla giunta, alla regione di ritirare l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale della discarica di Celico, in autotutela. Chiedevano anche la partecipazione dei territori nella stesura del piano regionale rifiuti e la bonifica dell'aria. Non dimentichiamo la bonifica dell'aria, perché insomma la contrada San Nicola, Celico, le falde acquifere e il resto sono pesantemente inquinate. Quindi non solo. Abbiamo raccolto queste firme e le abbiamo portate in regione, convocate in regione il pomeriggio lunedì 19 alle 15.30 da Oliverio. Oliverio non c'era. Non c'era. Ci ha fatto l'ombrellino. Ci ha palleggiato, diciamo così. Ci ha fatto l'ombrellino, ma era da aspettarselo, perché c'era da aspettarselo, perché solitamente lui in questi casi manda avanti la fanteria e lui se ne sta bello sul trono ad aspettare che passa il cadavere sul fiume, il cinese. Sì, seduto sulla sponda del fiume. Con noi l'aveva già fatto due volte mentre era presidente della provincia, abbiamo chiesto di incontrarlo. E per ben due volte ci ha fatto parlare con il suo capostruttura, capotecnico, capufficio, insomma, Iacucci. Sì, il suo, diciamo, braccio collaboratore destro. Più stretto, sì, Iacucci, che era presente appunto in questo incontro. Diciamo che era... Facciamo il parterre, insomma, c'era Iacucci, la formazione era Iacucci... Schierato al centro della difesa. Poi c'era alla sinistra, fantasista, diciamo, più che altro, l'ingegnere Pallaria, che è il capo del Dipartimento d'Ambiente. Sì, sì, un genio alla Pirlo, diciamo così. Diciamo Pirlo. Diciamo Pirlo. Poi c'era l'astruso Augruso, come lo chiamava Ciccio, che aveva le maniche della giacca un po' lunga fino a mezzo dito, tipo il geometra Filini. Però non ha parlato proprio. Che personaggi. E poi avevamo l'architetto Reillo, la signora, diciamo, sulla fascia destra. E poi avevamo dall'altra parte, c'erano schierati i sindaci di Rovito, Celico, Lappano, Trenta e Spezzano Piccolo, e poi dei nostri c'eravamo io, Vincenzo e Ciccio Noto. Diciamo che l'incontro è partito con uno sfogo, fondamentalmente. C'era anche giudice Andrea che mi ha tagliato dalla foto, ma io non lo taglio da. Sì, c'era anche giudice Andrea, anche cronaca. L'avvocato Nardi, il nostro rappresentante. Mi era scordato questo con questo avvocato Nardi. Cioè il nostro Baggio. Il nostro Gio. L'avevamo schierato in attacco, tu te lo sei dimenticato. Va bene così. Sì, perché ero distratto, che affenga a me c'è l'istile, credo che mi distraeva, va bene. Con i selfie mi zinnava, mi faceva, diciamo, va bene così. Diciamo che è partito con uno sfogo, giustamente uno sfogo del sindaco di Celico, dove si rimarcavano determinate questioni, poi la bonifica, la messa in chiarezza della situazione della discarica, insomma. Sì. E poi si è passati, diciamo, abbiamo letto un nostro documento, e poi si è passati degli interventi più o meno singoli. Diciamo che gli interventi più significativi sono stati quelli dell'avvocato, senza dubbio togliere agli altri, per carità di Dio, è stato quello dell'avvocato Nardi, che ha esplicitato in modo abbastanza semplice e capibile da tutti quali erano i punti fondamentali per cui noi chiediamo il ritiro dell'AIA, tra certo. cui il primo tra tutti, quello più palese, più grave, più inconveniente, che comunque fa sentire appunto la pesantezza di questo ecomostro nei nostri paesi, appunto il fatto che non rispetta le distanze minime stabilite dal decreto legislativo 36 del 2003, ovvero 1000 metri, Rovite a meno di 900 metri circa, meno 900 metri, mentre Celico a 600 passa metri. Insomma, nulla. Ci sono nulla. Case anche a 200-300 metri, sì. Case sparse, quindi sia chiaro che... Case sparse, ormai con l'ampliamento c'è una casa che è quasi... Praticamente è dentro la discarica, sta per essere inglobata, tra poco si troveranno confezionati assieme al tal quale. Questo, insomma, diciamo che siamo riusciti a ottenere un buon risultato, nel senso che noi eravamo andati lì per chiedere il ritiro in autotutela dell'AIA, eravamo andati lì per chiedere che la discarica non venisse usata per il conferimento dei rifiuti provenienti dal circuito pubblico, quindi rifiuti solidi urbani, quelli che produciamo in casa, e eravamo andati lì anche per chiedere l'esclusione di questa discarica dal nuovo piano rifiuti e per chiedere una partecipazione e una trasparenza alla stesura di questo piano. E diciamo che più o meno, tranne il primo punto per cui si sono presi del tempo, ovvero hanno promesso che rivaluteranno le carte in merito all'autorizzazione ambientale per vedere se ci sono gli estremi secondo loro per poterla ritirare in autotutela come noi chiediamo. A questo proposito ti voglio fare una domanda, o meglio, una considerazione. Loro valuteranno, no? Ci sarà un iter di valutazione di questa benedetta AIA. Noi tra qualche giorno usciremo con una lettera aperta al presidente Oliverio, poi ne parleremo meglio dopo. La cosa più importante che chiederemo in questa lettera aperta è che vogliamo che le persone che hanno partecipato alla fase autorizzativa dell'AIA non partecipano a questo iter di adesso, a questa nuova valutazione, perché è importante non avere gli stessi personaggi che a suo tempo hanno preso la decisione di darla questa autorizzazione. La Reillo, che rappresenta questo tavolo, diciamo, è una di queste. È risultata la sua faccia, perché era presente, era abbastanza, diciamo, come dire, non mi viene il termine, palese, nel senso che era abbastanza stizzita, che ti diceva proprio: ma se l'abbiamo data 6 mesi fa, come facciamo a rimetterla in discussione? L'abbiamo data 6 mesi fa per 12 anni, rimetterla in discussione a noi sembra, a me ha dato questa impressione. Vedremo se, diciamo che più che altro sembra che abbiamo fatto breccia nel cuore di Pallaria, che è sembrato abbastanza ben disposto, non si sa se per diciamo, istruzioni dall'alto o per sensibilità personale, sembrava, diciamo, ben disposto sia all'ascolto che a poter prendere in considerazione queste nostre richieste. Ha anche promesso le dimissioni Pallaria, vero? Sì, addirittura Pallaria ha promesso le dimissioni qualora non riuscisse a risolvere, a mettere in piedi un piano rifiuti dignitoso per la regione Calabria. Quindi diciamo che partiamo con l'applauso a Pallaria, che sicuramente diciamo si dimetterà tra qualche mese, perché diciamo non riusciranno sicuramente. È dal 98 che sentiamo che metteranno in piedi un piano di rifiuti dignitoso, quindi siamo nel 2015. Quindi. Giusto per correttezza di informazione, non è stato steso nessun verbale di questo incontro, nessuno ha voluto mettere nero su bianco le proposte che sono uscite da quel tavolo, e soprattutto la regione non è uscita con un comunicato stampa ufficiale, ovvero l'addetto stampa di Oliverio ha pubblicato un trafiletto su Facebook sul proprio profilo personale, però sul sito della regione stamattina, io pomeriggio non ho controllato, non c'era nessun comunicato ufficiale in merito a quello che è successo quel lunedì scorso. Insomma, è passata una settimana, avrebbe dovuto uscire con penso tempi che più ormai, rapidi. Penso che ormai non esca più nulla. Diciamo che c'è stato qualcuno che ha detto che questo è stato un grande insuccesso, in quanto Oliverio ci ha, diciamo, scacato, altri che hanno gridato alla grande vittoria. Diciamo che io sinceramente penso che siamo esattamente a metà. Sì. Nel senso che diciamo che siamo stati riconosciuti ovviamente grazie aver mosso, diciamo, non masse, però diciamo un buon numero di persone, e portando poi 8.000 firme siamo stati, diciamo, riconosciuti come una forza politica del territorio. Esatto. Da questo punto di vista abbiamo avuto un mezzo riconoscimento politico, perché Oliverio non c'era, quindi sì, vabbè. Chi dice, insomma, che ci ha scacato ha ragione, ha anche ragione però chi dice che abbiamo ottenuto un risultato importante, perché siamo diventati in qualche modo interlocutori di questa amministrazione regionale, no? Di questa giunta regionale. Quindi vabbè, sì, addirittura hanno promesso che ci renderanno partecipi delle linee guida anteprima, che ci metteranno a disposizione i tavoli tecnici per fare insieme a loro il piano dei rifiuti. Insomma, hanno detto un sacco di belle cose, che ovviamente senza scrivere nulla, è ovvio. E ci hanno promesso che una volta finito l'iter autorizzativo di revisione dell'autorizzazione ambientale, ci riconvocheranno nuovamente per discuterne insieme. E poi diciamo che Mario, su questo argomento, come hai detto tu, continua dopo quando parliamo delle nostre richieste nella lettera aperta, anche perché giorno, insomma, che è fondamentale che non si ripetano gli errori che sono stati fatti nell'autorizzazione, nel ritiro dell'autotutela della nell'autorizzazione ambientale della discarica di Scalacelle. Sì, in cui, insomma, il ricorso è stato vinto a mani basse, insomma, dalla ditta che gestiva l'impianto. Anche perché, insomma, è semplice fare un ritiro in autotutela che permetta poi un ricorso agevole se non viene controllato l'iter. Quindi da questo punto di vista vigileremo e chiederemo precisamente, in maniera precisa e puntuale, a questo presidente della regione Oliverio che cosa e come comportarsi, insomma. Ci sono delle cose che vanno concordate insieme, delle cose che vanno studiate insieme. Non possiamo accettare la solita decisione dall'alto, non è più il momento, anche perché Oliverio deve capire che è un intero territorio che dice no a una discarica, che vuole la bonifica di un territorio pesantemente inquinato nel corso degli anni da una politica, comunque da un una serie di istituzioni di cui lui ha fatto pienamente parte in questi ultimi, in questo ultimo ventennio, perché la provincia fa parte dell'iter autorizzativo, i comuni. Ricordiamo che nei verbali delle conferenze di servizio del 2008 c'era l'ingegnere toscano che dichiarava, scritto, quindi sono documenti ufficiali, che la regione e la provincia era completamente concorde con la politica dei rifiuti attuata dalla regione Calabria. Quindi diciamo che sapevano benissimo dell'esistenza di queste ecomostre, diciamo che hanno contribuito anche loro dalla provincia a tenerlo in piedi sin dall'inizio. Quindi diciamo fare le verginelle è fuori luogo, ma magari cercare di mettere una pezza degli eroi del passato sarebbe una cosa buona e giusta. Infatti noi abbiamo esordito dicendo che hanno una grande occasione per fare veramente, imboccare una nuova strada. Tra l'altro, ho dimenticato, si è parlato anche della bonifica della vecchia e di questa discarica di Celico, e alcuni si sono, diciamo, alcuni si sono presi impegno di trovare dei fondi o comunque di intercedere, diciamo, nella stesura di bandi europei o del genere. Favorire il recupero dei soldi per recuperare qualche fondo per la bonifica, sarebbe anche questa cosa buona e giusta, come dicevi prima. Tra l'altro bisogna puntualizzare il fatto che la manifestazione del 24, di cui parleremo dopo la pausa, nasce come momento conclusivo della raccolta firme e come momento iniziale della mobilitazione. Noi abbiamo portato le firme ad Oliverio con le nostre richieste e attendiamo adesso che qualcosa si muova, ma abbiamo lanciato un messaggio chiarissimo a questa giunta regionale, a questa amministrazione regionale. Il messaggio chiarissimo è che noi siamo già in mobilitazione, adesso si muovono loro, diano risposte chiare e precise su quello che abbiamo chiesto, perché 8.000 firme hanno un valore pesante, in 10 giorni, in 10 giorni, quindi hanno un valore pesante da un punto di vista, se si fa un sondaggio, anche così veloce, 10 persone su 10 in Presila ti dicono la discarica non la vogliamo. Non ce n'è uno, non ne trovi uno che dice sì, la discarica la voglio. Forse qualche amministratore dell'epoca che ha firmato le carte non ha la faccia di dire no adesso. Però ha firmato anche la petizione. Anche perché ci sono pure le firme di questi personaggi. Quindi, voglio dire, è un territorio intero che dice no. Ha un valore questo. Oliverio non può ignorare qualcosa del genere. Quindi il momento della manifestazione è l'inizio di una mobilitazione che continua e che continuerà. Poi parleremo, ripeto, della lettera aperta che scriveremo in questi giorni e che pubblicheremo ovviamente su tutti i nostri canali. Quindi prima di mandare un attimo la pausa musicale, una sintesi per far capire a tutti com'è la situazione adesso, perché magari c'è un po' di disinformazione, certe volte non siamo bravi a comunicare all'esterno. Ma certamente. Quindi diciamo che a parole sembra che siamo tornati nel febbraio 2014 per quanto riguarda la discarica, ovvero la discarica è aperta, ma è aperta solo ai privati, ovvero ai rifiuti non provenienti dalle nostre case fondamentalmente. Quindi si tratta di un ritorno a ante Orso Marzo, prima dei famosi blocchi del febbraio-marzo 2014. Esatto. A parole, perché comunque diciamo che c'è sempre la possibilità che questa discarica, una volta che venga completato questo fantomatico capannone con il biofiltro, riprenda a operare a pieno regime. Noi aspettiamo comunque le carte, quindi la discarica è aperta. Anche in questi giorni hanno visto camion salire, anche in questi due giorni abbiamo sentito una puzza nuova, strana, differente, venire dalla discarica invadere la vallata, compresa ieri sera mentre facevamo la nostra lunghissima assemblea. Io ancora ne porto i posteri perché c'è un sonno tremendo. Infatti sì. E diciamo che la situazione in poche parole è questa qui: la discarica aperta solo per i privati a parole, poi vediamo come si comportano in seguito. Quindi l'allerta deve stare alta e vale sempre lo slogan "se non la chiudete voi la chiudiamo noi", sia ben chiaro, nel senso che la mobilitazione, come hai detto giustamente tu, è appena iniziata. Noi quello che potevamo fare a livello, come dire, democratico, a livello di... Sì, sì, i passaggi formali che andavano fatti li abbiamo fatti tutti dall'inizio alla fine. Poi ci mobiliteremo di conseguenza, come è stato sempre. Insomma, il popolo brasiliano, se lo vogliamo chiamarlo così, saprà no, determinarsi in maniera tale da poter tutelare al meglio il proprio diritto, insomma, alla salute e alla difesa del proprio territorio. Quindi, assolutamente. Questo è il messaggio che è stato lanciato, insomma, sabato 24, e le 8.000 firme sono un urlo che va in questa direzione. Quindi, Andrea, possiamo andare con il prossimo pezzo musicale. Noi siamo sempre gli Scarafaggi, 105.7 ciroma.org per lo streaming. Nel cuore ninca 1859 muore il vecchio re Borbone, e sul trono va suo figlio, 23 anni ancora guaglione. È il momento di approfittare di questo vuoto di potere, in quel regno in mezzo al mare, difeso solo dalle sirene. Io banche Napoli l'ideale per rifarsi delle spese, per coprire il disavanzo della finanza piemontese. Ninco Nanco deve morire, qualche si campa potesse parlare, si parlasse potesse dire qualcosa di meridionale. Ninco Nanco deve morire, qualche si muore ci può raccontare che era brigante muretta accisa, perché non ci volete stare. Sarà una spina nel fianco, Ninco Nanco Guananca. Sarà una spina nel cuore, Ninco Nanco Guanamo. E lo zolfo di Sicilia, i cantieri a Castellammare, e le fabbriche della seta, e Gaeta da bombardare. E l'ideale che fa la guerra, una guerra idealizzata, per vedere chi la spunta tra il fucile e la tamuriata. E tamuriata è superstizione, questa storia deve finire. E qui si fa l'Italia o si muore, Ninco Nanco deve morire. Ninco Nanco deve morire, perché si campa potesse parlare, si parlasse potesse dire qualcosa di meridionale. Ninco Nanco deve morire, perché si muore ci può raccontare che era brigante muretta accisa, perché non ci volete stare. Sarà una spina nel fianco, Ninco Nanco Guanaca. Sarà una spina nel cuore, Ninco Nanco Guanaca. E per sconfiggere il brigantaggio e inaugurare l'emigrazione, bisogna uccidere il coraggio, e Ninco Nanco è meglio che muore, perché lui è nato Zappaterra, e ammazzarlo non è reato. E dopo un colpo di rivoltella l'hanno pure fotografato, e la sua anima è già distante, ma sul suo volto resta il sorriso. L'ultima sfida di un brigante, quanto è bella morire accisa. E Ninco Nanco deve morire, perché si campa potesse parlare, si parlasse potesse dire qualcosa di meridionale. E Ninco Nanco deve morire, perché si muore ci può raccontare che era brigante muretta accisa, perché non c'è voletta stare. E Ninco Nanco è da eliminare, e se lui muore chi se ne frega, sulla sua tomba neanche un fiore, sulla sua tomba nessuno prega. E Ninco Nanco è da eliminare, che non si nomini più il suo nome, sia maledetta la sua storia, sia maledetta questa canzone. Sarà una spina nel fianco, Ninco Nanco Guanaca. Sarà una spina nel cuore, Ninco Nanco Guanamo. Sarà una spina nel fianco, Ninco Nanco Guanaca. Sarà una spina nel cuore, Ninco Nanco Guanamo. E Ninco Nanco deve morire, perché si campa potesse parlare, e si parlasse potesse dire qualcosa di meridionale. Bentornati in studio, noi siamo sempre gli Scarafaggi. Siamo andati a fumare una sigaretta, fa un freddo cane stasera qui in studio. Dicevamo 105.7.org per lo streaming. Continuiamo insomma con il racconto insomma di queste due interminabili, faticosissime settimane, piene di preparativi, di iniziative. Abbiamo fatto due iniziative lì al presidio, una al presidio e una all'Hotel Virginia prima della manifestazione, lo ricordiamo, in cui si è parlato di legalità, di ambiente, di lavoro, di opportunità, no? Che può portare la tutela ambientale. Sì, diciamo, abbiamo avuto ospiti abbastanza informati dei fatti, ricordiamo Francesco Cirillo, Claudio Salvi, Alfredo Sproviero, Ferdinando Laghi, Laura Corradi, insomma persone che hanno qualcosa da dire sulla tematica in quanto esperti in materia, e quindi è sempre un piacere ascoltarli e farle e portare alla gente le testimonianze di professionisti e di gente che sono anni che combatte contro queste politiche, questi ecomostri, sia a livello giuridico che a livello pratico. Esatto, quindi sono state giornate importanti, insomma giornate in cui avremmo davvero voluto che quel tavolo regionale fosse lì presente a prendere appunti, perché sarebbe molto utile per loro ascoltare queste lezioni, perché di lezioni si tratta, insomma, su che cosa vuol dire e che importanza ha il rispetto e la tutela ambientale, che non è uno slogan ecologista così fine a se stesso, ma è appunto qualcosa che sprigiona le potenzialità dei territori, al contrario invece di chi lucra su situazioni di disastro ambientale, come possono essere inceneritori, discariche e tutto il resto. Quindi dicevamo, una settimana piena di appuntamenti e di scadenze che si è conclusa con la manifestazione del 24, una manifestazione che lo diciamo subito, insomma, poteva riuscire meglio, no? Se vogliamo, non tanto nei numeri, perché le persone hanno partecipato, era stata una manifestazione molto partecipata, anche da bambini, da molti, tanti bambini che erano alla testa del corteo con i propri striscioni, che hanno confezionato quella mattina stessa, che hanno colorato insomma la manifestazione, quindi non tanto nei numeri quanto nello svolgimento, insomma in alcuni momenti poteva andare sicuramente meglio, poteva essere più incisiva da questo punto di vista, però è stato un momento importante per un territorio, insomma, che di queste manifestazioni, parliamoci chiaro, non ha mai visto. Tranne le primarie. Chiamiamola, vabbè. Vabbè, è una battuta. Vabbè, quindi voglio dire, si tratta di un momento veramente, veramente unico per i nostri territori. Sulla manifestazione che cosa dire, oltre a quello che abbiamo già detto? È stato un chiaro messaggio politico, è stato il coronamento, no, della raccolta firme, è stato l'atto finale della raccolta firme, la certificazione, ecco, di quelle firme, di quelle 8.500 firme, che non erano numericamente in piazza quel giorno, ma erano simbolicamente in piazza quel giorno. È stata una manifestazione fatta di mattina, quindi tanti di quelli che hanno firmato non hanno potuto partecipare perché erano al lavoro, però tutti gli esercizi commerciali della fascia presilana hanno abbassato le serginesche per solidarietà con la manifestazione, molti dei commercianti erano presenti in corteo, c'erano le scolaresche, le parrocchie che hanno aderito, i comitati regionali, c'erano i sindaci, c'erano dei senatori della Repubblica, tipo il senatore Morra, c'erano dei parlamentari, quindi una manifestazione che certo ha dato un segnale forte alla politica regionale, e che ha detto: noi non vogliamo questa discarica, vogliamo che ritiriate l'autorizzazione integrata ambientale. Quindi la richiesta forte che abbiamo portato in regione ufficialmente lunedì 19 si è concretizzata attraverso la voce di un popolo intero che ha manifestato il proprio dissenso a questo ecomostro. che cosa sta succedendo? È arrivato il grande. Vieni da questa parte, raggiungici. Non essere timido, vieni. Abbiamo un ospite molto, molto gradito. Io faccio spazio, mi metto un attimo con un'altra sedia. Scusate i rumori di sottofondo, ma purtroppo dobbiamo risistemare lo studio. Ce l'abbiamo fatta. Allora, innanzitutto grazie per essere qui, questo ospite, diciamo, segreto, non lo vogliamo dire chi è. Stavamo appunto parlando male di lui. Sì, infatti ho sentito, buonasera a tutti, ho sentito il radio che mi tagliavate e sono venuto a difendermi, che mi ha detto che sono un esperto, invece non ne so nulla. Comunque Alfredo Sprovieri qui con noi di Masciata.it, uno dei pochi giornalisti, se vogliamo, che da sempre, dall'inizio, dalle prime manifestazioni contro la discarica di Cerico, è stato vicino a questa protesta. Ma se no ha tutti i capelli bianchi. Sì. C'è invecchiato pure lui. Sì. Tremendo. Sì, no, ma era assolutamente un dovere, perché al di là di quella che è la professione, quindi dover cercare di dare voce a chi non ce l'ha, perché fondamentalmente questo è quello che si nota in queste cose, cioè che bisogna dire sì, l'obiettività, sì, quello che vuoi, però c'è chi dà voce solo al comunicato stampa della sigla sindacale o della sigla partitica X o Y, c'è chi invece deve dare voce ai territori, alle popolazioni, e in questo caso noi ci spendiamo sotto la pioggia in quelle giornate di blocchi, in questi due e più anni che stiamo seguendo la cosa, perché siamo anche abitanti di quel territorio. E la cosa forse che dobbiamo dire da questa postazione, dai microfoni di un'esperienza così importante come quella di Radio Ciroma, che Cosenza deve partecipare a questa protesta, perché stiamo parlando delle falde acquifere di Cosenza, e la montagna dà vita alle nostre vite, ma dà morte alla nostra morte. E se non si occupano i cosentini di questa questione si occuperà dei cosentini. Quindi l'appello che possiamo fare oggi è proprio quello di partecipare e dare il loro contributo, perché non è solidarietà ad una causa giusta, ma è anche la loro causa. Come darti torto. Quindi se i cosentini non vanno alla montagna, la montagna andrà dei cosentini. sì, questa è assolutamente adeguata. Okay. Va bene, sarà fatto. Ti vorrei fare una domanda, Alfredo. Come hai visto la manifestazione? Quali sono le tue impressioni a caldo, così, dai? Anche hai partecipato pure all'assemblea di ieri sera, molto lunga, infatti ieri sera è un po'... Vabbè, sentiamo un velo sull'assemblea. Sì. No, possiamo innanzitutto dire che c'era puzza, e non era dovuto al fatto che eravamo chiusi in una stanza da ore e ore, ma fatto... Anche perché ci laviamo. Sì, no, perché siamo tutti con una certa igiene, cura dell'igiene personale, ma c'era una puzza strana nella valle ieri notte. E questo lo dobbiamo dire, non sappiamo da dove arriva, ma un sospetto chiaro lo abbiamo, quindi vogliamo capire bene cosa sta succedendo alle nostre vite, alle nostre case, e lo diciamo a nome di tutte le persone che l'hanno sentita, che hanno due narici per sentire quello che abbiamo sentito noi, a meno che non siamo così stanchi da sentire cose che non esistono. Odori che non esistono. Sulla manifestazione è stata una bella partecipazione popolare, soprattutto visto fasce di età e consapevolezza in quelle fasce di età, che non vuol dire solo i bambini, vuol dire i genitori, vuol dire nelle case, vuol dire che se ne parla a cena, se ne parla a pranzo, vuol dire... Io ho visto persone che non ne possono più, francamente. Ho paura anche che troppe volte chiamarli in piazza senza riuscire ad avere una soluzione possa un po' stancarli, come sta avvenendo un po' nella nostra democrazia. Votiamo forse troppo e non vediamo che cambia mai qualcosa. Però bisogna dire a queste persone, ringraziarle che sono venute, che hanno dato un contributo anche molto rumoroso, molto colorato alla manifestazione, che bisogna continuare a far valere i propri diritti, che è il diritto alla salute, il diritto all'autodeterminismo, cioè a decidere che quel territorio non ha come core business l'immondizia, che la Calabria non ha come core business l'immondizia, nonostante anche l'industria del piacere, l'industria del gioco. Io sono un grande tifoso del Cosenza e non posso non notare che le squadre calabresi sono finanziate, sono sponsorizzate da queste ditte che si occupano di queste cose. Io spero che la Calabria viva di qualcos'altro, che non sia l'immondizia, o meglio, che ne possano vivere, se c'è da viverci, i calabresi, non dalle 4, 5, 6 solite aziende private. Anche perché diciamo che la Calabria di immondizia più che altro sta morendo. Sta morendo, sì. Ricordiamo i dati allarmanti sull'incidenza tumorale, siamo diventati una delle prime regioni d'Italia, perché insomma sì. L'inquinamento ambientale, insomma, la distruzione dei territori, a questo porta. Naturalmente non è solo i rifiuti, è un pochino tutta la gestione del territorio, sì. però i rifiuti rappresentano una parte importante di questo scempio, sì, calabrese. Quindi è chiaro che la Calabria dovrebbe vivere di altro, di turismo, di cultura, gastronomia. La ricchezza della terra, la montagna, altre ricchezze, la ricchezza della terra calabrese è ben altra. Il sole non è sicuramente quello che viene nascosto sotto terra. Dice una cosa molto interessante, voglio un attimo intervenire su questa cosa dei tumori, perché ho letto anche io delle statistiche però non so bene da dove arrivano queste, cioè ci sono delle consapevolezze nelle nostre famiglie, quali delle nostre famiglie non è toccate a questo problema? Però bisogna dire che dal dicembre 2013 è legge il registro regionale dei tumori. E qui non ce l'abbiamo. Allora io non voglio fare quello che dice che la cosa è pericolosa, che ci sono questi dati. A me sembra più pericoloso che questi dati non ci siano. Perché non c'è la volontà politica di fare un registro dei tumori, che non è altro che una grossa statistica che ti dice: guarda, in quel territorio hai superato di molto o non hai superato di molto la media nazionale, quindi c'è qualcosa che dobbiamo andare a vedere. Io queste cose le voglio sapere, anche perché è legge. La legalità non è buona solo quando vogliono loro, la legalità deve essere buona sempre, soprattutto quando è seguita la giustizia sociale. Questo i popoli hanno, i territori, in particolare i territori che soffrono molto di questa incidenza tumorale in Calabria, hanno il diritto di sapere finalmente se il loro territorio è un territorio normale da questo punto di vista, perché nelle case penso che c'è la paura che questo non sia. Assolutamente sì. Sul registro tumori, insomma, diciamo che le battaglie non riguardano solo la Calabria in Italia, perché sappiamo che anche la Campania, no? Sì. A livello di incidenza tumorale è tra i top 3, no? Delle regioni italiane. C'è una situazione simile, il registro tumori è stato varato dal Consiglio regionale e il Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso perché andava contro le direttive della legge di stabilità, quindi siamo veramente al ridicolo. Quindi è qualcosa che, perché il registro tumori fa paura, perché se poi si va a scavare dove si deve andare a scavare, poi si trova la merda sotto, quindi... Poi cominciano ad uscire fuori pesanti responsabilità, non soltanto politiche, di quello che viene fatto sui nostri territori. Quindi il registro tumori è chiaro che faccia paura e sia molto, molto scomodo da questo punto di vista. So che in Calabria adesso c'è una proposta di legge, spero che arrivi presto, anche perché è importante capire quello che dici tu, che non è un problema solo locale. Cioè oggi lo trovate online, se non l'avete visto in diretta, TG5 di pranzo, nella rubrica Indignato Speciale, si è occupato di una situazione in Sicilia, di una discarica in una valle, tra l'altro bellissima, che se cacciavi il nome di quella valle e mettevi Celico, era assolutamente le cose che ci diciamo da anni. Quindi c'è una regia ben precisa dietro, comunque c'è una direzione ben precisa dietro, che è quella di affamare dei territori che sono comunque spopolati, perché il problema dei nostri paesi è anche questo: un'emigrazione fortissima, un'anagrafe che punta a paesi di pensionati che non hanno granché più da dire, che le loro battaglie le hanno fatte, quindi lì possiamo fare i nostri porci comodi. E questa è ora di dire basta, di unire tutte queste vertenze territoriali che riguardano, come abbiamo visto, veramente tante parti d'Italia, e cercare di dare una nuova impronta, che non sia quella invece di trivellare il nostro mare, per esempio, da un'altra questione di cui dovremmo occuparci presto, che già abbiamo iniziato, ma sì, sì. Ma sempre a proposito di occultamento di dati, ricordiamo che circa un anno e mezzo fa, mentre proprio noi eravamo al blocco, era in corso il rilevamento aereo tramite termografo dei territori calabresi. Quei dati era stato promesso che sarebbero stati diffusi e pubblicati, meno trasparenti. Ancora ad oggi non abbiamo notizie di quei rilevamenti, se non qualche spiffa era uscito qua e là, è abbastanza preoccupante, che poi ovviamente è tutto da verificare, però diciamo che questo ritardo nella pubblicazione, nella messa nei dati, diciamo, fa mal pensare, diciamo. Poi diciamo, insomma, che noi da calabresi doc siamo malpensanti per natura, quindi. Sì, ci si becca spesso, diceva uno più intelligente di noi. Sì. Giusto per ritornare anche al fatto che diceva Alfredo prima della puzza che si sentiva ieri, noi in merito a questo abbiamo provveduto subito oggi a spedire una bella PEC, una posta certificata, agli enti preposti, a Mario Oliverio, all'ingegnere Pallaria, che ormai siamo amici proprio, alla grande proprio. Siamo amici proprio da sempre, colleghi. Sì, usciamo insieme. Proprio. Sì, sì, all'Arpagal e al comune di Celico, perché è strano, insomma, ci sono varie testimonianze che in questi giorni persone hanno visto salire dei camion durante le ore notturne. Non si sa se questi camion salgono in discarica a scaricare rifiuti o semplicemente per i lavori di ampliamento che sono in corso in questo momento, però... diciamo che qualcuno dovrebbe controllare. Qualcuno dovrebbe controllare, e qualcuno come al solito non c'è mai. Quindi noi ci becchiamo queste puzze strane, visto che la discarica è chiusa gli RSU da ormai dal 14 settembre, non mi ricordo. Sì, il 14 settembre. Diciamo che il capannone è in corso d'opera, i rifiuti che arrivano dovrebbero essere abbastanza inerti a livello soprattutto di odori, perché sono rifiuti che vanno bancati direttamente in discarica perché sono stati già trattati. Quindi ci domandiamo a questi da dove diavolo vengono, e l'abbiamo chiesto a questi signori dell'Arfoca, insomma abbiamo chiesto magari anche che il sindaco di Celico metta questa finalmente questa telecamera sul corso dove passano i camion, sulla strada, sulla vecchia mulattiera dove oggi passano i camion, visto che ha tappezzato Celico di telecamere, potrebbe farlo anche benissimo, piazzare una bella telecamera lì dove c'è il nostro presidio e vigilare anche alle notte affinché non passi roba che non dovrebbe passare, visto che già in passato è successo nella vecchia discarica che di notte si scaricassero, diciamo, rifiuti, camion sospetti, visti senza targa, li abbiamo visti tutti salire di notte. Quindi e chiediamo anche all'ARPA che magari di fare un bel controllino, diciamo, no, visto che sono l'organo preposto per effettuare i controlli regionali, anche perché sono in corso dei lavori di ampliamento, vogliamo sapere anche se questi lavori di ampliamento rispettano quelli, i termini progettuali. Ci sono voci che fuoriescono che hanno aumentato le volumetrie delle vasche, insomma situazioni che a noi risultano poco chiare e vorremmo vederci chiara, appunto, visto che la collaborazione istituzionale è, come ha scritto, cito Alfredo perché è un termine veramente azzeccato, è intermittenza, sia la presenza che l'aiuto è proprio intermittenza. Sì, come un gelo presepe, insomma. L'osservatore esterno, l'osservatore esterno, è strano che in una manifestazione ci sono tutti i sindaci, 10 giorni dopo ce ne sono due, dopo ci sono di nuovo tutti, dopo si fa un incontro e sono tutti a dire che in buona sostanza è già stata chiusa, quindi ci spieghino da dove arriva la puzza, perché se dobbiamo lavarci diversamente ci organizzeremo, insomma. Esatto. Giusto per andare a chiudere, magari ricordiamo quello che faremo in questi giorni, la questione della lettera, sì. Abbiamo già più o meno scritto. Sì, più o meno abbiamo già scritto questa lettera aperta, adesso poi la affineremo, insomma, a livello di forma, no? Giusto le virgole e i punti. La infiocchettiamo. La infiocchettiamo, come dice sempre Vincenzo. La infiocchettiamo e la rendiamo pubblica, la spediamo direttamente al caro Mario Gerardo Oliverio. Quali sono i contenuti di questa lettera? Dicevamo qualcosa già prima, no? Chiederemo che l'iter di verifica dell'autorizzazione integrata ambientale sia svolto nella trasparenza più assoluta, che sia reso partecipe un legale di fiducia indicato da sindaci e comitato, che sia escluso da questo iter di verifica chi ha preso parte al precedente iter di rilascio. È questo qua, questo è il contenuto centrale, le cose più importanti che chiederemo. Ovviamente un ultimatum, ovviamente non è che possiamo andare avanti sì, per sempre, quindi chiederemo delle risposte in tempi certi. Ecco così, quindi alla scadenza di questi tempi certi noi insomma, andiamo al mare. Sì, andiamo al mare. Le popolazioni presi là insomma risponderanno e si determineranno, no? Nella maniera che più riterranno opportuna per difendere appunto, come dicevamo prima, il proprio diritto alla salute, il proprio territorio, no? Sono dei diritti costituzionalmente garantiti, quindi non faremo altro che applicare almeno per una volta questa benedetta costituzione. In sintesi chiediamo di fare le cose per bene, per evitare gli errori, come dicevamo prima, che sono stati fatti a scalageli per quanto riguarda l'autorizzazione ambientale di scalageli, perché se le cose vanno fatte per bene, non a presi in giro, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quindi è la presenza di un legale esterno che garantisca sia professionalità, non che i legali della cioè non abbia questa professionalità, anzi. Però chi si occupa di queste cause ambientali da anni e ne fa praticamente il fulcro del mestiere di avvocato e non lo fa solo a salterello nel senso di questioni ambientali, forse ha più competenze e può aiutare a trovare gli escamotage, cioè a evitare che alcuni escamotage possano... Più che altro per evitare che si prendano decisioni politiche e non legali. Perché poi questo è il problema, perché una decisione come quella che è stata presa sull'autorizzazione integrata ambientale della discarica di Celico, come di altre mille discariche, sono decisioni politiche e non legali. Quindi noi vorremmo vigilare sul fatto che siano prese decisioni di livello legale e non politico. Quindi questo è quello che faremo nei prossimi giorni, settimane. Da queste frequenze informeremo su tutti gli sviluppi, su quello che faremo, sulle iniziative e gli appuntamenti che ci daremo. Ringraziamo Alfredo per essere stato grazie con a voi, noi. Un piacere. Salutiamo tutti, noi siamo sempre gli Scarafaggi, 105.7, ciroma.org, ci vediamo lunedì prossimo. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina è resuscito un pezzo alla volta la volontà. Scaduta, ora che sei una certezza tradita, ora che sei un'ambizione svenduta, chiuso nel tuo sepolcro, quello che avevi oggi non vale più, hai studiato, creduto, lottato e sofferto. Sorriso negli occhi che non c'è più, col futuro qualcuno ha giocato d'azzardo. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina è resuscita un pezzo alla volta. Che sei una protesta ammaestrata, ora che sei una carezza svogliata, ora che sei una speranza piegata, chiuso nel tuo sepolcro. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina è resuscito un pezzo alla volta la volontà. Un pezzo alla volta, un pezzo alla volta, un pezzo alla volta. Se ci hai creduto oggi non c'è più. Hai discusso, sprecato, amato ed offerto. C'è un'ipoteca anche sulla tua dignità. Nel crudele silenzio delle notti insonni. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina è resuscita un pezzo alla volta la volontà. Pezzo alla volta, pezzo alla volta, pezzo alla volta, pezzo alla volta. C'era una volta, ora non c'è. Mentre l'unica cosa che resta davvero sei tu.